Fresh Bit di Giulia Crivelli. Shake. Fashion shakes off minimalism at Milan Fashion Week. La moda si scrolla il minimalismo di dosso durante la settimana della moda di Milano. Questo è il titolo di uno dei molti reportage dei quotidiani anglosassoni sulle sfilate in corso fino a lunedì, domani, per presentare le collezioni femminili dell'autunno-inverno prossimo, 2017-2018. Prima di concentrarci sulla parola che ci interessa, shake, una piccola aggiunta sul titolo che ho citato. Avrete notato che la parola fashion è ripetuta due volte. I giornalisti italiani hanno il terrore delle ripetizioni e in genere, pur di toglierle, lo dico per esperienza personale, usano un sinonimo che non è del tutto adatto. Gli anglosassoni non hanno di questi timori. Sfogliate i giornali e vedrete che spesso ci sono queste ripetizioni. Ma veniamo a shake. Può essere verbo irregolare, to shake, shook, shaken, o sostantivo. To shake off, come quello del titolo, è un phrasal verb e significa scrollarsi dalle spalle, di dosso. I can't seem to shake off this cold. Non riesco a liberarmi di questo raffreddore. Attenzione, perché cold vuol dire sia freddo che appunto raffreddore. He couldn't shake off the feeling that something was wrong. Non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che ci fosse qualcosa di sbagliato. Da solo, to shake è molto simile all'italiano tremare, scuotere. The whole house shakes when a train goes by. L'intera casa trema quando passa il treno. Shake the bottle well before use. Scuoti bene la bottiglia prima di aprirla. Ma ha anche altri significati. He was shaking in fear. Tremava dalla paura. She shook her head in disbelief. Scosse la testa in segno di incredulità. Our host shook each of us warmly by the hand. Il nostro ospite diede a entrambi delle calorose strette di mano. Come sostantivo abbiamo shaker, che in inglese può essere sia quello per i barman, sia il contenitore del sale da tavola. Poi c'è shake up. We witnessed a management shake up. Siamo stati testimoni di un forte rimescolamento del management. Infine c'è l'aggettivo shaky. Her voice sounded shaky on the phone. Al telefono si percepiva un tremolio della voce. After a shaky start, they fought back to win the game. Dopo un inizio incerto, si ripresero e vinsero la partita. Infine, the ladder looked a little shaky. La scala sembra poco stabile.